24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 18 minuti e 53 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo giovedì 25 giugno. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia, buongiorno Maria Latella. Ciao Maria. Ciao Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Questa mattina non vorrei darvi conto delle prime pagine dei quotidiani inglesi o francesi, ma soffermarmi invece su un tema che penso poi affronteremo tra qualche minuto. Il tema è quello della gravissima difficoltà che hanno le lavoratrici italiane. Il dato lo sapete, 37.611 lavoratrici neomamme si sono dimesse nel corso del 2019 e non c'era ancora stato il Covid. Alla mancata partecipazione delle donne al mondo del lavoro, a quella che è una situazione che in Europa vede l'Italia messa peggio quasi rispetto a tutti gli altri paesi. E oggi il Messaggero dedica un ampio spazio in quelle che sono le pagine che il Messaggero da più di un anno dedica al tema della rappresentanza femminile, le pagine di Mind the Gap, e con un intervento di Vittorio Colao e di una componente della sua task force, Raffaella Sadun, con quattro proposte perché la parità di genere aiuti la crescita italiana, perché senza la presenza femminile nel mondo del lavoro questo paese non riparte. Ed è una presa di coscienza che comincia a farsi strada un po' in tutti, anche se restiamo il paese, Simone, il paese europeo che fa più resistenza su questo. L'articolo scritto da Vittorio Colao e Raffaella Sadun, con delle proposte concrete, merita una citazione e spero anche una riflessione da parte del governo. Speriamo davvero, a partire dalla riflessione, anche la riflessione sulla scuola, che è stato un grande tema. Vedremo che effetti avrà sull'occupazione femminile, questi due mesi, che effetti avranno sull'occupazione femminile, tragici. Questi due o tre mesi di chiusura. Tragici. Sì, è abbastanza probabile. Oggi ci occupiamo di un settore che è stato drammaticamente colpito da questa crisi e che dalla crisi da Covid, forse il più colpito, e che fatica a vedere la via d'uscita o la vede, insomma, molto complicata, è il settore del turismo. Se volete dire la vostra, tra l'altro c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, e anche l'800-24-0024 per intervenire in diretta, e i fronti sono due. Innanzitutto gli italiani che cosa faranno e se avranno i soldi per fare qualcosa, e l'altro fronte sono i turisti stranieri che, insomma, si fatica a far arrivare. Giorgio Palmucci, presidente dell'ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo. Buongiorno Palmucci, benvenuto. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. E Andrea Corsini, assessore alla mobilità, alle infrastrutture, ma in questo caso soprattutto al turismo dell'Emilia Romagna. Buongiorno Corsini, benvenuto, eccoci. Buongiorno, grazie e buona giornata a tutti. Maria, vai tu. Buongiorno. Io vorrei partire dal turismo straniero in Italia, perché è quello che ci ha dato sempre grande ossigeno. Qualche spiraglio positivo si vede ora che sono stati riaperti i voli. Cito lo stop al calo delle prenotazioni, in particolare dalla Germania, che è passata da meno 88,4% a meno 86, non un granché, ma insomma è un segnale. Anche la Francia è passata da meno 86 a meno 83. Qualcuno arriva. Anche dalla Russia, meno 91 a meno 90. Qualche turista russo ci sarà. Però io nei giorni scorsi ho dato un'occhiata alle tariffe aeree, scoprendo delle incongruenze che mi dovete aiutare a capire. Un volo da Malpensa per la Sicilia arriva a costare anche 400 euro. Ma vogliamo aiutarlo così il turismo? Lo chiedo a Palmucci, ma forse avrà dei dati e qualcosa da dire anche l'assessore dell'Emilia Romagna. Il discorso, diciamo, sulla ripresa, leggera ripresa delle prenotazioni degli stranieri, questo è un dato positivo che infatti anche noi nel nostro bollettino che abbiamo appena pubblicato indichiamo, ma come vedete sono ancora dei numeri molto molto bassi. L'aspetto interessante, la cosa più importante, più interessante è proprio il fatto che perlomeno si sia raggiunta questa riapertura delle frontiere, almeno all'interno dell'Unione Europea e non solo dell'area Schengen, che quindi permette di evitare quella che era la quarantena, che non avrebbe dato nessuna possibilità di recupero di arrivi di turisti stranieri. Quello che adesso abbiamo quindi sono dei numeri ancora poco significativi, ma il fatto di aver visto anche alle frontiere, soprattutto alle frontiere con l'Austria e con la Svizzera, il ritorno in auto dei turisti austriaci, tedeschi soprattutto e svizzeri, è comunque un segnale che ci fa prevedere che perlomeno nel corso del mese di luglio e agosto potremo compensare una parte, una minima parte di quelle che sono state le perdite dei mesi precedenti. Per quanto riguarda le tariffe, effettivamente in questo momento ci sono ancora un numero di voli dall'Europa verso l'Italia, ma anche dall'Italia, quindi dall'Italia del Nord verso il Sud, e il numero di voli è ancora estremamente limitato, e questo effettivamente abbiamo rimarcato che le tariffe sono troppo elevate per proibitive. Sono d'accordo con lei. Cioè, e quindi su questo, vedendo un attimino quello che è l'incremento del numero di voli che è previsto nelle prossime settimane, sia da parte della nostra compagnia di bandiera, ma sia da parte anche delle altre compagnie, si fa sperare che aumentando l'offerta si possa quindi vedere anche una riduzione di questi prezzi, altrimenti già c'è una tendenza evidente di utilizzare i mezzi, cioè le auto per spostarsi quest'estate. Però insomma, soprattutto per raggiungere le isole, soprattutto quindi la Sardegna, la Sicilia e comunque il Sud Italia, è importante che ci sia un numero di voli maggiore, e non soltanto dall'Italia in domestici, ma anche dai principali paesi europei. Corsini, a questo si aggiunge quello che è stato denunciato da più parti come un aumento delle tariffe per le ovvie misure sanitarie che devono prendere gli stabilimenti balneari proprio negli stabilimenti balneari. Allora, abbiamo voluto averla ospite anche per parlare di questa fonte infinita di turismo straniero che è la Riviera Romagnola. Non solamente quello, perché l'Emilia Romagna non è solamente quello, come è naturale che sia, e però no, è un pezzo importante del vostro turismo. Qua come si fa, come la state gestendo, come vi state organizzando? Ma dunque, noi naturalmente quest'anno puntiamo, come tante altre regioni italiane, prevalentemente sul turismo interno. Abbiamo messo in campo una campagna di comunicazione, di promozione, diciamo molto aggressiva nei confronti delle TV, delle radio, della stampa, con testimonial importanti della nostra regione. Naturalmente noi siamo molto interessati ovviamente anche ai mercati esteri, in particolare quelli che hanno fatto negli anni la fortuna della nostra regione, in particolare della Riviera, e da lunedì saremo presenti anche su un network di televisioni tedesche, appunto per promuovere insieme al Veneto e alla Liguria, facciamo un'operazione di sistema con il patrocinio dell'Enit, il prodotto balneare che è molto omogeneo fra le tre regioni. I tedeschi cominciano ad arrivare da noi, quelli naturalmente che si muovono prevalentemente in auto, quindi nelle regioni del sud della Germania, anche dall'Austria. Dal 25 di giugno ripartirà il treno della Deutsche Bahn che collega Monaco di Baviera con Rimini. Quindi insomma, siamo impegnati anche sul fronte della promozione internazionale. Per quanto riguarda i voli, l'aeroporto di Bologna riparte in questi giorni con 51 rotte di Ryanair, molte sono anche interessanti dal punto di vista dell'incoming. L'aeroporto di Rimini è chiuso, riaprirà nei prossimi giorni, avrà ovviamente un'operatività molto bassa in questa prima fase, poi confidiamo che dal primo di agosto, così almeno ci hanno dato rassicurazioni in tal senso, che Aeroflot inizi a volare anche su Rimini. Peraltro c'è una concreta possibilità che Aeroflot voli tutti i giorni per tutto l'anno su Rimini, che è una destinazione molto gradita dai russi. Quindi insomma, ci stiamo muovendo tutto campo e stiamo cercando di recuperare per quanto possibile ovviamente i mesi primaverili, anche i mesi di giugno, che naturalmente sono stati molto complicati e molto difficili. Sul fronte dei prezzi non abbiamo particolari problemi, anche dire la verità, qui c'è una polemica che è nata nei giorni scorsi rispetto al fatto che alcuni alberghi della Riviera svendono il prodotto facendo addirittura dei prezzi Sì, ne abbiamo parlato il nostro Alessandro Milan, no? Parlando di questo albergo che metteva le stanze a 9 euro. Stiamo parlando naturalmente di un albergo su 1500, sì. Quindi non è neanche un caso. Iniziamo ad avere ascoltatori che ci scrivono, non riguarda la sua regione, Diano Marina in Liguria, quindi provincia di Imperia, ombrellone ad agosto quasi raddoppiato, prezzi folli in spiaggia, almeno in Veneto, se volete dire la vostra. Non è così in Emilia Romagna, quindi magari se volete ottimi servizi a un costo contenuto in Emilia Romagna. Momento promozione di Corsini. Ci prendiamo una pausa e poi ritorniamo da voi. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Aprirei questa seconda parte, cara Maria, con una telefonata, quella di Paola dalla provincia di Cuneo. Paola, buongiorno, prego. Sì, buongiorno a tutti. Prego. Niente, io ho un'agenzia di viaggi in provincia di Cuneo, una piccola realtà, comunque siamo in tre a lavorare, una in cassa integrazione, facciamo i turni delle due socie. Volevo denunciare questo, perché il turismo non può ripartire se abbiamo questi tempi. Allora, l'Alitalia che annulla voli, compagnie navali che annullano le navi che ci spostano i traghetti, quindi anche noi abbiamo paura a riproporre le vacanze, perché abbiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto nei mesi gennaio e febbraio, che è stato un buon lavoro, ma fermo in quei due mesi, e in queste ore siamo ricostretti a riprenotare tutto. Voglio denunciare questo fatto. Il problema dei voli, ha ragione, è importantissimo, lo segnalavo prima. Che ci dice Palmucci di questo? Sì, che qua non sono i costi, sono proprio le cancellazioni, sì, cioè i voli che uno prenota. È un problema che blocca il turismo. No, è sicuramente un grossissimo problema e, come ho detto prima, ci sono state troppe riprogrammazioni che sono state sì legate a quanto è avvenuto durante il periodo più duro, quindi della pandemia, però... Io da quello che almeno stiamo vedendo, analizzando quelli che sono andamento delle prenotazioni anche internazionali a livello di prenotazioni aeree, sono quei numeri che lei ha dato, ma che giustamente, cioè, che mostrano comunque una inversione di tendenza rispetto a quanto è avvenuto nei mesi precedenti. Quello che è certo è che adesso, questo io non posso che essere d'accordo con l'agente di viaggio, non posso che essere d'accordo con lei, cioè se vogliamo che almeno per questa prossimi due mesi ci possa essere un minimo di recupero di quello che abbiamo perso, è assolutamente necessario favorire il più possibile quello che è l'accessibilità alle destinazioni, quindi non soltanto via terra ma anche via nave e anche via aereo. Ma che strumenti avete per fare, mi scusi, che strumenti avete con le compagnie aeree? Guardi, noi capisco la buona volontà, ma poi nei fatti? Come agenzia di promozione non possiamo che sensibilizzare il Ministero competente in maniera tale che possa intervenire sul Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sull'ENAC, soprattutto per quanto riguarda il discorso delle cancellazioni. Effettivamente penso che anche voi abbiate letto che ci sono delle sanzioni che sono state previste anche dall'ENAC proprio per cercare di evitare che ci sia si continuino a ripresentare quei problemi che sono stati evidenziati. Noi più di questo non possiamo che sensibilizzare sul fatto che è essenziale che ci sia la facilità di accesso e quindi che i voli ci siano, che ritornino ad aumentare. E devo dire che parecchie compagnie aeree, comunque ho visto che dal 1 di luglio, poi dal 15, poi dal 20, ci sono parecchie compagnie aeree che hanno previsto un incremento notevole di quelli che sono le rotte, di quelli che sono rotte, il numero di voli. Le rotte e i voli. E chiede un ascoltatore, Mauro, dice: signori, ma cosa devono fare le compagnie aeree? Devono non volare in perdita e diventare tutte delle Alitalia? No, non si sta dicendo questo, si sta dicendo che molte compagnie la stanno facendo un po' furba e quindi che cosa fanno? Ti fanno prenotare, ti fanno pagare il biglietto, dopodiché quando si accorgono che il volo non è pieno, per non volare in perdita cancellano il volo magari una settimana prima. Allora, questo rappresenta un problema sicuramente per gli utenti e ovviamente poi anche a cascata per gli operatori turistici. Corsini, un altro ascoltatore ci dice: guardate che in Croazia da 3 settimane è tutto full. Ci siamo mossi un po' in ritardo? Che dice? Intanto io vorrei vedere questo full, perché se basta dirlo lo diciamo anche noi. Noi non ci siamo mossi in ritardo, noi ci siamo mossi molto bene. Pensare di riaprire tutta la filiera del turismo a fine maggio, solamente un mese fa, sarebbe stato da pazzi. Ci siamo riusciti perché abbiamo gestito molto bene l'emergenza sanitaria, non solo in Emilia-Romagna ma anche in altre regioni, e quindi io credo che non siamo in ritardo. Adesso naturalmente dobbiamo correre per provare a salvare questa stagione, provare a rilanciare questo grande sistema economico, questa grande industria che si chiama turismo. Personalmente, almeno io posso parlare per l'Emilia-Romagna, nei fine settimana siamo full anche noi. Poi naturalmente c'è qualche sofferenza durante la settimana, ma questo non è, diciamo, un dato che riguarda solo la stagione del Covid, ma è una tendenza che ormai si era consolidata nel corso degli anni. Speriamo che il tanto interesse, la tanta comunicazione, la tanta promozione che stiamo facendo anche le altre regioni, si trasformi in prenotazioni. Noi stiamo cercando di lanciare dei messaggi rassicuranti, che sono quelli appunto che si può fare una vacanza tranquilla, in protezione, in sicurezza, senza accorgersi, diciamo così, che ci sono delle misure di sicurezza o delle misure di prevenzione sanitaria, perché questo è... Senta Corsini, com'è la situazione? Com'è la situazione occupazione nella sua regione? Vedo che il ministro dell'economia Gualtieri pensa di estendere la cassa integrazione al settore del turismo. Da voi ne hanno fatto ricorso massiccio? Com'è la situazione della cassa integrazione nel settore turismo, diciamo, in Emilia Romagna? La situazione è in parte migliore rispetto a quella di qualche mese fa, però adesso dobbiamo continuare a dare, come dire, un ammortizzatore sociale a tutti quei lavoratori stagionali che sono rimasti fuori dalle ultime misure del governo, ma mi pare che l'impegno che ha preso non solo Gualtieri ma anche la ministra Catalfo di estendere anche all'ultima platea di casse, diciamo, di stagionali che erano rimasti fuori dall'ultimo provvedimento, vada nella giusta direzione. Naturalmente i livelli occupazionali quest'anno sono inevitabilmente inferiori, l'importante è che chi è rimasto fuori dal lavoro abbia un ammortizzatore che gli consente di arrivare alla disoccupazione a settembre. E questo è un punto fondamentale. Ascolti Palmucci, dovendo fare una previsione per questo, so che sono molto difficili, molto difficili. Dovendo fare una previsione per questo agosto, che cosa immagina per questo luglio e per questo agosto? Cosa immagina? Ma quello che abbiamo visto, abbiamo fatto tra l'altro anche un sondaggio su più di 3.000 italiani, cioè quindi circa il 50% degli italiani prevede comunque, di 47% prevede di partire durante l'estate, soprattutto nel periodo di luglio-agosto e poi una parte settembre. È chiaro che l'83% di questi prevedono ovviamente di stare in Italia, perché come è difficile per gli stranieri spostarsi all'estero, lo stesso avviene per noi, quindi c'è una propensione a restare in Italia. Quindi io ritengo che almeno nel corso e visto anche le condizioni climatiche di queste settimane, ascoltando anche gli operatori, sentiamo che c'è una forte richiesta, almeno di domanda, di richiesta di poter prenotare, ovviamente avendo la garanzia di poter annullare, perché giustamente si è sempre il punto interrogativo di un'eventuale ripresa che ci auguriamo che non avvenga mai. E in secondo luogo c'è sicuramente anche una volontà da parte una richiesta da parte degli operatori di continuare con la comunicazione che, come ha detto giustamente anche l'assessore Corsini, viene fatta in Italia, e noi anche come Enit stiamo facendo insieme alle regioni all'estero, cioè proprio per fare in maniera tale che soprattutto i turisti stranieri rivedano una crescita più consistente rispetto a quella che abbiamo visto finora. Però insomma io penso che almeno per il mese di luglio ed agosto ci potranno essere dei risultati migliori di quelli che potevamo aspettarci alcune settimane fa, quando non avevamo ancora idea sulla riapertura dei confini e sulla la possibilità di spostarsi tra una regione all'altra. L'altra domanda che viene fatta molto da parte degli italiani soprattutto è quindi poi l'utilizzo di questo bonus vacanze che parte a partire dal 1° luglio e che quindi darà comunque un sostegno alla spesa, visto che comunque l'effetto Covid ha avuto un'influenza notevolissima anche sulle tasche e sull'economia delle famiglie italiane. Maria? Una domanda rapidissima, un ascoltatore veneto si preoccupa, che lavora appunto nel settore del turismo, si preoccupa di questa risorgenza del virus in una regione tedesca e si chiede se questo potrà avere effetto sull'arrivo di turisti tedeschi in Italia. Il fatto che siano stati isolati 560.000 tedeschi nel nord Reno-Vestfalia è comunque un segnale che può dare preoccupazione. È stato ben identificata la provenienza e l'origine di questa diffusione del contagio, da questo mattatoio, quindi vuol dire che comunque nei vari paesi, soprattutto nei paesi europei, si è preparati ovviamente molto di più di quanto potevamo essere preparati, quanto si poteva essere preparati a febbraio nel dover affrontare poi delle situazioni di emergenza. Quindi io ritengo che sia stato ben identificato e ben circoscritto, per cui io mi auguro proprio che invece non dia delle conseguenze e non si allarghi ad altre regioni, ad altri distretti della Germania. Senta Corsini, a chiudere, allora Giorgio Palmucci dal suo ruolo ha tessuto le lodi di questo bonus vacanze, e sul quale però gli operatori hanno qualche perplessità, soprattutto per i meccanismi con i quali scatta, ossia diventa un credito d'imposta per l'albergatore o l'operatore del settore, no? che poi appunto può portarlo in detrazione alla fine dell'anno, il che vuol dire di fatto che questo bonus vacanze lo pagano gli operatori almeno per l'80%, che sono già in crisi di liquidità, e questo può essere un problema? Ma allora guardi, il bonus vacanze sicuramente è una grande innovazione che peraltro noi avevamo anche, come dire, sostenuto e caldeggiato in epoca pre-Covid come una misura importante per accrescere e aumentare la domanda interna. Certamente vanno migliorati i meccanismi, perché mi pare un po' farraginoso, confido che si possa fare nella fase di conversione del decreto in legge, però ecco, segnalo che il tema del credito d'imposta è stato chiesto in diversi incontri dalle stesse associazioni degli albergatori, quindi non è un'invenzione del ministro Franceschini, ma è una richiesta che è venuta proprio dalle associazioni nazionali degli albergatori. Dopodiché va migliorato il meccanismo e soprattutto la tempistica con cui si può scontare sulla dichiarazione dell'imponibile. Sì, anche perché in effetti poi quel credito è comunque cedibile, quindi, ad altri, quindi teoricamente questo problema dovrebbe scavallato. Meglio avercelo che non avercelo, Corsini, sì, capisco bene? Beh, assolutamente sì, poi ripeto, vanno migliorati poi i meccanismi, soprattutto i tempi di riscossione, ecco, che mi paiono un po' troppo lunghi rispetto alle borse iniziali che deve avere l'albergatore. Ecco. Sì. Grazie Andrea Corsini, grazie Assessore alla Mobilità, Infrastrutture, Turismo e Commercio dell'Emilia Romagna, e a Giorgio Palmucci, Presidente dell'Enit. Buona giornata a entrambi e buon lavoro. Buona giornata. Sperando che quest'estate appunto porti tanti turisti. Una pausa e poi abbiamo Marco Bentivogli. Mattino. Ed eccoci in una giornata importante nella quale i sindacati dei metalmeccanici saranno in piazza con una manifestazione nazionale alle 10.30 per riportare l'attenzione sulle tante crisi aziendali ancora non risolte, 100 vertenze. Marco Bentivogli, segretario della FIMCISL, dimissionario. Buongiorno Bentivogli, eccoci qua. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno Maria, Bentivogli. Prego. Qual è il suo punto di vista sulle varie opzioni che sembrano essere sul tappeto per far ripartire il paese? Ci sono stime pessimistiche, quelle appunto anche del Fondo Monetario Internazionale. Il ministro Gualtieri dice che sono troppo pessimistiche. Voi oggi in piazza invece pessimisti sembrate, ricordate tutte i vari tavoli di crisi aperti dalla Whirlpool alla Jabil. Secondo la sua opinione è indifferibile, come dice la Corte dei Conti, il taglio delle tasse ai dipendenti, ai pensionati, alle imprese? È da qui che si deve ripartire più che dal taglio dell'IVA? Ma sono due temi diversi. Innanzitutto noi continuiamo a sostenere che sia fondamentale né bonus né tagli IVA, ma tagliare l'IRPEF, perché c'è un problema fondamentale di giustizia fiscale in questo paese, che si continua a chiedere più tasse a chi le paga. C'è un arretramento spesso, c'è stato negli scorsi anni, nella lotta all'evasione, e le persone che pagano le tasse hanno sul loro carico, sul loro cuneo tra l'altro fiscale, della busta paga, un divario tra il lordo e il netto assolutamente inaccettabile. Noi però siamo in piazza sulle crisi industriali e non eravamo fuori dalle piazze prima del Covid. Già prima del Covid avevamo costruito iniziative per spiegare che è inaccettabile che negli ultimi 24 mesi non ci sia una crisi industriale risolta. Significa che c'è un problema serio, c'è un problema di funzione delle istituzioni e della politica, perché se nessuna crisi si riesce a risolvere, io sono tanti anni, ho seguito per tanti anni le crisi, e c'erano alcune regioni d'Italia in cui non si risolvevano mai le crisi, ma erano solo alcune, penso soprattutto alla Sardegna, soprattutto alla Sicilia. Ecco, la differenza è il ministero adesso, che non funziona, Bentivogli? Ma è un insieme di ministeri, qui c'è un problema che il governo non ha idea di che cosa mangia il paese. Il pezzo che esporta di più l'Italia non è l'enogastronomia, è la meccanica strumentale. Se questo paese perde terreno sulla produzione di metalli e sulla loro trasformazione nel manifatturiero avanzato, questo paese va in default industriale. E questo, purtroppo, io non voglio fare il professore di nessuno, non voglio insegnare niente a nessuno, ma se al governo si continuano a spiegare che si danno soldi per le liquidità delle imprese e le imprese non hanno questa percezione, si dispiega che c'è i soldi della cassa integrazione, e la cassa integrazione in molte più aziende, anche sono pessimisti, in molte più aziende di quelle stimate non sono arrivati i soldi della cassa integrazione. E poi c'è un problema proprio di scelte. Il nostro PIL è fatto per buona quantità, ci sono sicuramente le costruzioni, ma c'è sicuramente l'automotive. L'automotive arriva circa al 7% da solo del PIL. È mai possibile che questo governo sull'automotive stanzi solo gli incentivi sui monopattini e le biciclette? È mai possibile che accanto a noi paesi che hanno un'economia più forte in questo momento, per cui Francia e Germania, stiano sostenendo la rottamazione dei veicoli fino ad Euro 4? In Italia abbiamo il 40% delle auto fino a Euro 4, e in Italia, per l'ideologismo soprattutto degli ambientalisti da salotto, no, solo elettrico. Quando l'Euro diesel, l'Euro 6 diesel temp, cioè l'ultima generazione, emette meno CO2, meno anidride carbonica, di metano e GPL di molte ibride. Allora, in un caso si fa politica industriale, si sostengono le imprese e i lavoratori, l'occupazione e i salari. In altro si continuano. Il problema non è che non ci sono i soldi, stavolta i soldi dall'Europa stanno arrivando. Il problema più grave è che non si ha la decenza di capire che questo paese sta finendo a carte 48. Quest'autunno sarà drammatico, sarà veramente drammatico. E non, senta, si vuol capire che dal punto di vista sociale bisogna prevenire. Germania e Francia lo stanno facendo. Maria, altro che voglio chiederle a proposito delle aziende, che non risolvono da anni ormai il problema del loro futuro. Citavo prima dei nomi grossi: Whirlpool, Wanbao, Jabil, sono tutte multinazionali straniere, aziende straniere che hanno comprato in Italia e ora sembrano voler lasciare al loro destino i lavoratori italiani. Mi risulta che approfittando della crisi molti imprenditori, molte aziende internazionali stiano dando un'occhiata all'industria italiana in cerca di buoni affari a poco prezzo. È un pericolo, perché se si compra e poi non si progetta un futuro per i dipendenti, ma si compra semplicemente per togliere magari un concorrente dal mercato, ha ragione lei, il futuro imprenditoriale di questo paese è a serio rischio. Ma vedi, dottoressa, secondo me la questione è un po' ancora più complicata. Prima di tutto, vabbè, in Wambau, ACC, per fortuna si chiama di nuovo, abbiamo fatto un accordo che è la strada vera per risolvere queste cose, e cioè un accordo che prevede salvaguardia occupazionale, rientro di lavoratori e la partecipazione. Guardi, il problema non è la bandierina italiana o straniera che si mette sopra l'azienda, il problema è che i lavoratori devono partecipare alle scelte strategiche di impresa. Questo nei metalmeccanici stiamo riuscendo a farlo, addirittura in Fiat, nella fusione con PSA, in Manfrotto, in Sidrallois. Il problema è che bisogna riportare le aziende alla loro responsabilità sociale, ritornare anche a chi fa cultura, invece di polemizzare continuamente e spesso anche i vostri colleghi usare parole di odio per chi fa accordi sindacali, e cercare di ragionare che questo, il lavoro italiano, vada soprattutto deideologizzato, e soprattutto bisogna ritornare a situazioni concrete con cui si possano affrontare vari problemi. Il guaio è che anche molti imprenditori italiani stanno chiudendo con la scusa della crisi, per cui non c'è tanto italiani e stranieri. C'è il problema che il rischio è che ci sia uno shopping, su questo lei ha perfettamente ragione, a poco prezzo, ma per assets industriali da chiudere, da dismettere, e ovviamente, e quindi, annullare le concorrenze di mercato. Per cui qual è però il tema? Perché in tutto il mondo si sta facendo dei giganteschi piani, perché ci sarà una grande accelerazione tecnologica per le aziende che resteranno in piedi, e per cui per fare il reskilling, la riqualificazione del lavoratore, accompagnare soprattutto da noi per le aziende micro e piccole la trasformazione tecnologica, perché spesso non riescono ad arrivare alle innovazioni. Ma qui siamo ancora prima, queste sono le cose di politica industriale. Noi abbiamo da spegnere il fuoco. Spegnere il fuoco significa far arrivare liquidità garantita alle imprese dallo Stato, perché non le indebiti, a far arrivare la cassa integrazione e far ripartire il paese. Far ripartire il paese significa smetterla con la cultura. Mi faccia dire questa cosa. Siamo l'unico paese al mondo che ha una cultura anti-industriale, sia al governo che all'opposizione. Ovviamente non generalizzo, nel governo ci sono persone di fiducia industrialista totale, ma il tratto complessivo è che ci sono mille rivoli di spesa per accontentare tutti, ma non una scelta strategica per dire che, cari cittadini, noi vogliamo salvare il paese, perché sappiamo che senza l'industria, lei pensi che il 52% delle esportazioni italiane sono metalmeccaniche. Senza l'industria questo paese è morto. Bentivogli, avremmo voluto portarla, le esprimiamo la massima solidarietà per le minacce che ha ricevuto, tre proiettili in una busta con minacce arrivate ad Ancona, a Roma. Vorrei chiederle come si sente, ma posso solo immaginarlo, però purtroppo dobbiamo chiudere. È finito il nostro tempo. Restiamo grazie Marco Bentivogli. Lo ha detto lui stesso, forse l'odio per chi fa gli accordi è un pezzo di tutto questo, l'ideologizzazione del tema del lavoro. Grazie Marco Bentivogli. Grazie Marco Bentivogli, alla prossima. Maria, ci risentiamo domani alle 8:20. A domani. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao.